sono le 13. GR24, il sole 24 ore. Militari italiani muoiono in un attentato suicida a Kabul, erano appena arrivati in Afghanistan. Il ministro della difesa alla russa dice: vigliacchi, noi non ci fermeremo. Con loro sullo stesso aereo anche la nostra inviata Cristina Balotelli, il racconto ai nostri microfoni. Siamo vicini all'Italia, questa è una grande tragedia, commenta la NATO. In corso l'autopsia sul corpo della giovane marocchina uccisa dal padre, si cerca ancora l'arma del delitto. In primo piano naturalmente l'attentato avvenuto questa mattina in Afghanistan, lo avete sentito anche dai nostri titoli, 6 i militari italiani morti. La parola va a Maria Piera Ceci. Sì, naturalmente fra pochissimo torneremo a collegarci con Kabul e con la nostra inviata Cristina Balotelli, che questa mattina peraltro era sull'aereo che ha condotto i militari a Kabul, ha riportato i nostri militari a Kabul. Dicevamo dell'attentato di questa mattina sulla strada che porta all'aeroporto, 6 i morti, 3 i feriti, non in pericolo di vita. Cominciano ad arrivare anche le reazioni sul piano internazionale. L'attacco ai militari italiani a Kabul è una grande tragedia, lo dichiara il portavoce della NATO James Appaturai, esprimendo la vicinanza dell'alleanza all'Italia, di cui ricorda l'importante contributo alla missione ISAF in Afghanistan. Veniamo ora alle reazioni italiane, perché naturalmente tutto il mondo politico questa mattina si è fermato per riflettere su questa davvero tragedia che si è consumata a Kabul. Ci colleghiamo dunque con Roma e con Andrea Viali. Sì, il mondo politico, Maria Piera, si è fermato per esprimere anche un cordoglio unanime, questo da parte di tutte le forze politiche, per quanto successo a Kabul, e alle famiglie dei nostri militari morti è andato il cordoglio dei partiti, ma anche di tutte le più alte cariche dello Stato. Anche il Presidente della Repubblica Napolitano, che lo ritroviamo, si trova in visita ufficiale in Giappone, è stato informato dell'attentato a Tokyo, dove in questi momenti sta partecipando ad un appuntamento ufficiale con l'imperatore Akito, e a breve è atteso un suo messaggio. Il Presidente del Consiglio Berlusconi ha anche invece voluto ricordare come l'Italia sia impegnata per garantire la libertà in Afghanistan. I vigliacchi non ci fermeranno, ha aggiunto invece il Ministro della Difesa, che ha riferito in aula al Senato su quanto successo a Kabul. Io direi, se siete d'accordo, di sentire un passaggio del suo intervento in aula e poi una dichiarazione che abbiamo raccolto di Anna Finocchiaro del Partito Democratico. Le parole di cordoglio non sono mai, in questi casi, specie per il Ministro della Difesa, adeguate, ma sono sicuro di interpretare veramente pensiero non solo di tutto il governo, non solo delle alte gerarchie militari, ma di tutti gli italiani, nell'esprimere la vicinanza vera e profonda alle famiglie dei caduti, ai loro comandanti, a tutti coloro che stanno operando in condizioni difficili in quel teatro, in quello scenario internazionale, dove i nostri soldati stanno facendo fino in fondo il loro dovere, con orgoglio, con passione, con forte motivazione morale, anche a costo dell'estremo sacrificio della vita. Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, voglio innanzitutto partecipare al dolore profondo del mio gruppo e mio personale per l'evento tragico di oggi, in cui hanno perso la vita i rappresentanti delle nostre forze armate in Afghanistan. E certo, forse la prima domanda a questo punto è da rivolgere, con la ricerca di una rassicurazione, al Ministro della Difesa, all'onorevole Russa, circa la sicurezza, i margini di sicurezza che siamo in grado di assicurare a quanti in missione di pace operano in nome del nostro paese in Afghanistan. E permettetemi, colleghi, di cogliere l'occasione, non, per carità, non sarebbe nella sede, nel momento, e non neanche l'intenzione, per avanzare alcuni, come dire, alcune proposte e alcune domande al Ministro La Russa, al governo e alla maggioranza. Ora è ovvio che la questione che riguarda la nostra presenza in Afghanistan, come dice il Ministro La Russa, è concordata costantemente con gli organismi internazionali. Non è polemica dire che un grande paese, di fronte a questa responsabilità, ha la necessità, il dovere di trovare, come dire, una maggior forza in una relazione continua anche nel dibattito parlamentare con le opposizioni. Ecco Andrea, pare che si vada anche verso una sospensione della manifestazione della stampa di sabato. Sì, è così, la Federazione Nazionale della Stampa ha deciso, dopo questo attentato, ecco, di rinviare la manifestazione sulla libertà di stampa che era in programma sabato. Piera. Grazie, grazie ad Andrea Viali. Naturalmente torneremo a collegarci nei prossimi giornali radio, anche perché la Russa nel pomeriggio poi riferirà anche alla Camera sull'attentato di questa mattina. E noi torniamo invece ora a collegarci con Kabul, con la nostra inviata Cristina Balotelli. Cristina, quali sono le ultime? Dove ti trovi intanto in questo momento? Sì, buongiorno, in questo momento mi trovo nel mezzo di uno spostamento perché abbiamo abbandonato la sala d'attesa dell'aeroporto dove eravamo provvisoriamente in attesa e ci troviamo adesso fuori di nuovo, fuori dalla sala d'attesa, insomma in una sorta di parcheggio della base militare dell'aeroporto, e attendiamo che arrivi la scorta per portarci a destinazione, da quello che ho capito. Ecco, come dicevamo, tu questa mattina eri purtroppo sull'aereo con a bordo anche i soldati italiani che sarebbero rimasti vittime dell'attentato di questa mattina? Confermo, ero su un volo, un CC-30 dell'aeronautica militare, partito questa mattina da Abu Dhabi e arrivato qui a Kabul intorno alle 11.30 ora locale, e su questo volo c'erano tanti militari, diciamo che i soli civili eravamo io e altre due persone, tutti gli altri erano militari, moltissimi baschi amaranto della Folgore che vedo anche in questo momento, forse c'è l'arrivo dei feretri, non ne sono sicura, ma è possibile che arrivino i feretri e ci sia una sorta di saluto per quanto non abbiano le armi, ecco, perché in genere questi schieramenti si fanno con le armi, si fa l'ultimo saluto, però mi dicevano che lo faranno comunque. È possibile che sia adesso, prima che partiamo, dopodiché partiremo. Ecco, naturalmente informaci se avverrà questo saluto che ci racconterai in diretta appena possibile. Dunque, dicevi Cristina, questa mattina eri in volo con i soldati, siete poi arrivati all'aeroporto, a quel punto che cosa è successo? Appena arrivati all'aeroporto abbiamo cominciato tutte le operazioni di sbarco dei bagagli e imbarco sui camion container, e mentre si attendeva, si chiacchierava qui alla base, a un certo punto abbiamo sentito un'esplosione. Mi dicono anche che ci sono per motivi di sicurezza bisogna anche stare un attimo attenti con queste dirette radiofoniche, perché sì, rischiamo, certo, di essere intercettati. Certamente, certamente. Allora, in questo momento. Sì, Cristina, dacci informazioni ulteriori informazioni quando ne avrai. Torneremo dunque a collegarci più tardi. Adesso ti lasciamo, visto che appunto ci sono anche ragioni di sicurezza che ci impongono adesso di interrompere questo collegamento. Grazie mille a Cristina Balotelli. Invece sentiamo ora una ricostruzione di quanto accaduto, una prima ricostruzione di quanto accaduto questa mattina. La fa per noi il generale Massimo Fogari, capo ufficio informazione dello Stato Maggiore della Difesa. La dinamica che conosciamo, la ripeto, è quella che l'attacco è stato condotto contro due nostri veicoli Lince, veicoli protetti che si recavano da base del 186esimo reggimento Nembo a Kabul verso il comando ISAF che si trova nel centro di Kabul. Arrivati più o meno all'altezza dell'aeroporto di Kaya, un veicolo suicida si è inserito in mezzo a ai due nostri Lince e si è fatto esplodere. Generale, ci dà l'aggiornamento soprattutto le condizioni dei feriti? Guardi, i feriti sono 4 e non versano in imminente pericolo di vita. Adesso la situazione là qual è? Guardi, lo stato di massima allerta in Afghanistan c'è sempre e dappertutto in qualsiasi area dell'Afghanistan. E la massima allerta si traduce nell'attuare il meglio dal punto di vista delle procedure di autoprotezione delle nostre forze. Tenga conto che questo è un attentato che ha causato delle vittime e di conseguenza è quello che salta di più ovviamente agli occhi della cronaca, però fatti del genere sono già capitati e capitano e sono sempre stati scongiurati grazie all'addestramento dei nostri militari e alla protezione che ci è stata offerta fino ad oggi dal veicolo Lince. Il Lince che tipo di protezione dà? È un veicolo particolare, direi unico al mondo, che consente una diciamo così, attutire gli effetti di un'esplosione che avviene nei pressi del mezzo stesso. Perché non è stato possibile, insomma, identificare prima la traiettoria di questa auto suicida? A seguito di eventi del genere c'è sempre un'inchiesta. Sarà l'inchiesta a dirci quali sono i motivi esatti. Il resto sono tutte supposizioni e speculazioni. Ecco, lo sentivamo dalle parole del generale Massimo Fogari, capo ufficio informazione dello Stato Maggiore della Difesa, al microfono di Maria Luisa Pezzali, che insomma l'attenzione era altissima. Infatti un rischio attentati nella provincia di Kabul era stato diramato ieri con un warning delle forze di sicurezza. Negli ultimi tempi gli allarmi su attacchi alle forze della coalizione sono diventati quasi quotidiani, vengono tutti attentamente valutati. Con quello di ieri le forze di sicurezza allertavano i diversi contingenti, compreso quello italiano, su possibili azioni offensive contro le strutture governative afghane o della coalizione presenti lungo l'Airport Road, quindi la strada che porta all'aeroporto, proprio quella in cui poi si è verificato l'attentato suicida che dal centro della città porta all'aeroporto internazionale. Ve lo raccontiamo praticamente tutte le mattine qui su Radio 24, quanti attentati ci sono nella mattinata italiana. L'allarme in particolare indicava il rischio di azioni da parte di una cellula di 3-4 elementi che recentemente avevano trasferito nella capitale un veicolo da utilizzare per un'offensiva suicida contro obiettivi sensibili. Purtroppo in questo caso l'allerta era stata diramata, ma evidentemente l'allerta non è stata sufficiente per prevenire quanto accaduto questa mattina. Purtroppo appunto quelli di oggi non sono neanche le prime vittime in Afghanistan fra i nostri soldati. Sentiamo questa scheda. È il più grave attentato subito dalle truppe italiane all'estero dalla strage di Nassiriya in Iraq. In quell'occasione, il 12 novembre 2003, l'esplosione di un camion cisterna davanti alla base italiana dei carabinieri fece 28 morti, 19 italiani e 9 iracheni. Tra i nostri connazionali, 12 erano carabinieri, 5 i militari dell'esercito, 2 i civili di una troupe che stava girando un documentario. Questa volta i morti sono stati 6 per parte italiana, portando a 21 il totale dei caduti del nostro paese dall'inizio della nostra missione in Afghanistan nel 2004. Non solo a causa di attentati, ma anche di incidenti o per malattia. Finora quest'anno le vittime erano state 2. Il maresciallo dell'aeronautica Arnaldo Forcucci, morto il 15 gennaio 2009 per arresto cardiocircolatorio, e il caporal maggiore Alessandro Di Lisio, dell'8° reggimento guastatori paracadutisti Folgore, ucciso dallo scoppio di un ordigno al passaggio di un convoglio italiano a Farah. Paolo Piacenza, GR24, Il Sole 24 Ore. Di nuovo in studio con il GR24. Nella prima parte abbiamo parlato ovviamente a lungo dell'attentato che c'è stato questa mattina in Afghanistan. Lo ricordiamo, 6 militari italiani sono rimasti uccisi. Torneremo a parlarne sia al termine di questa edizione che poi in uno speciale a partire dalle 13:30. E allora parliamo adesso, andiamo in Giappone, a Tokyo, per la visita ufficiale del nostro Presidente della Repubblica, Stefano Carrera, corrispondente da Tokyo. Innanzitutto, Napolitano ha appreso la notizia dell'attentato agli italiani? Sì, l'ha appreso appena rilasciato alcune dichiarazioni. Io vi chiamo dal teatro Bunka Kaikan di Tokyo, dove doveva andare in scena una serata d'eccezione per l'Italia, perché l'imperatore del Giappone è venuto insieme al nostro presidente Napolitano ad assistere alla parte finale del Don Carlo proposto dalla Scala, la Scala che è il completo. Invece le notizie provenienti dall'Afghanistan hanno rovinato l'atmosfera. Il presidente è stato informato poco prima del finale dell'opera, chiaramente per motivi protocollari non poteva offendere l'imperatore e andarsene su due piedi. Il consigliere militare però è uscito e si è trattato insomma di non di un periodo di tempo lungo. Alla fine il Presidente ha salutato l'Imperatore, ha chiamato il Capo di Stato Maggiore della Difesa e poco fa ci ha rilasciato queste dichiarazioni. Ha detto che la notizia gli ha suscitato una profonda emozione e cordoglio, ha avuto delle parole per le famiglie e per i feriti, parole di, diciamo, di augurio, e ha soprattutto ha espresso la solidarietà e la riconoscenza degli italiani per il ruolo alle forze armate impegnate in una missione di pace. Ha anche detto che l'imperatore del Giappone gli ha espresso il suo cordoglio e sulla questione che gli è stata chiesta, ma allora questo riapre il dibattito su restare o non restare, lui ha detto: di queste cose si parla in Italia, non a Tokyo. Gli restituisco la linea. Grazie Stefano Carrera, collegato con noi da Tokyo. Rimaniamo agli esteri. Il progetto americano della costruzione del radar antimissile che gli Stati Uniti programmavano di costruire nella Repubblica Ceca in Polonia è stato rimandato a tempo indeterminato. Lo ha comunicato la notte scorsa il presidente americano Barack Obama in una telefonata al premier ceco Jan Fischer. E ora veniamo alla cronaca italiana, il caso della ragazza di origine marocchina uccisa dal padre. L'autopsia è in corso all'ospedale di Pordenone e dagli esiti si potrà dire con certezza se Sanaa Dafani sia morta dissanguata dopo essere stata accoltellata dal padre. Si è parlato di una ferita molto profonda alla gola che sarebbe stata quella letale. Intanto gli investigatori hanno ripreso le ricerche nel bosco di Grizzo di Montereale Valcellina, dove è avvenuto l'omicidio, nella speranza di ritrovare là l'arma del delitto. Il padre di Sanaa, El Khatawi Dafani, è rinchiuso nel carcere di Pordenone in stato di fermo. A suo carico si prefigura il reato di omicidio aggravato perché si sarebbe trattato di un gesto premeditato da tempo, oltre a quello del tentato omicidio di Massimo De Biagio, il fidanzato di Sanaa. Il 31enne adesso è ancora ricoverato all'ospedale per le ferite riportate nel tentativo di proteggere la ragazza, ma la sua deposizione è già stata raccolta dai carabinieri ed è proprio lui ovviamente il teste chiave di questa indagine. Per De Biasio, il presidente della provincia di Pordenone, ha intenzione di chiedere al presidente napolitano di conferirgli un encomio come simbolo di integrazione, perché è sempre più certa, infatti, l'ipotesi che alla base della tragedia ci sia stata l'insofferenza del padre di Sanaa per quella figlia che voleva diventare troppo occidentale e che aveva scelto un compagno non musulmano. Silva Menetto, GR24, Il Sole 24 Ore, Pordenone. E questa mattina l'imam Mohammed Watik, rappresentante dell'Associazione Culturale Islamica di Pordenone, è intervenuto nella trasmissione di Radio 24 Bianco o Nero. E al microfono di Alessandro Milan così ha descritto il padre della ragazza uccisa. Questa persona non è mai pregato, è una persona che non è mai venuta al centro, e l'ho conosciuto da fuori e ho sempre parlato con lui quando c'è l'occasione di praticare, di venire al centro. Perché noi, il nostro centro ha risolto parecchi problemi, conflitti familiari che sono, io credo che sono, erano più gravi di questa qua. Però questa persona è una persona che non ho mai pregato, una persona che anche c'è il problema di alcolismo di questa persona. È una persona che non rispetta neanche la sua religione. È una persona che vive una realtà neanche, non era sua, non ha conservato la sua, non ne ha neanche... ha imparato dagli altri, diciamo, è rimasta una persona sospesa, né musulmano né cristiano. E sempre nella trasmissione Bianco Nero, come sempre vi riproponiamo un sondaggio, oggi riguardava questo caso, vi abbiamo in sostanza chiesto se c'entra la religione con questo omicidio, visto che il ministro delle pari opportunità Mara Carfagna aveva definito questo delitto come frutto di un'assurda guerra di religione, mentre esponenti della comunità islamica di Pordenone, appunto come quello che abbiamo appena sentito, dicono di non strumentalizzare l'Islam. Allora, alla domanda, secondo voi è giusto tirare in ballo la religione? Il 75% di voi ha risposto sì, il 25% no. A proposito di rapporti fra le religioni, Benedetto XVI ha rivolto i suoi auguri agli ebrei di Roma in occasione delle vicine festività ebraiche, affermando di attendere con gioia di compiere una visita alla comunità e alla sinagoga. E naturalmente poco fa il Papa, informato dell'attentato in Afghanistan, ha anche assicurato la sua vicinanza nella preghiera per le vittime e manifesta la sua vicinanza alle famiglie e a tutte le persone coinvolte. Questo è il dispaccio riferito poco fa dal portavoce della Santa Sede, Padre Federico Lombardi. Oggi il CDA della RAI, dopo il caso Ballarò e lo scontro fra Bruno Vespa e il presidente Galimberti. In diretta da Roma, Chiara Di Michele. Sì, buongiorno. Il Consiglio d'amministrazione RAI è in corso, tema centrale il caso Ballarò, con la decisione del direttore generale Masi di spostarlo a questa sera in favore di Porta a Porta, che ricordiamo è andato in onda martedì in prima serata. Altro tema, le critiche del presidente del Consiglio Silvio Berlusconi, che proprio durante la trasmissione di Vespa ha definito farabutti e delinquenti conduttori e giornalisti. Il presidente della RAI Garimberti ha espresso solidarietà a tutti i lavoratori del servizio pubblico, sottolineando che la TV pubblica non è TV di Stato dei regimi. Altro nodo, il flop di ascolti registrato da Porta a Porta. Infine, il CDA di oggi è dedicato anche ad Anno Zero. La trasmissione di Santoro partirà tra una settimana, ma il conduttore nei giorni scorsi aveva lamentato la mancata messa in onda degli spot e la mancata partenza dei contratti. La questione per la truppa operativa di Santoro si è sbloccata, rimane in sospeso solo un contratto, quello di Marco Travaglio. È tutto per ora, restituisco la linea allo studio. Grazie Chiara Di Michele. Come avete sentito, come del resto già si sa, lo scontro per la trasmissione Porta a Porta riguardava la diretta del terremoto, e noi parliamo del terremoto andando all'Aquila con il reportage di Stefano Totoro. Senza i ragazzi dell'università è difficile immaginare una vita all'Aquila, perché la cultura nel capoluogo abruzzese è sempre stata la prima industria, il motore della città. I riflettori sono costantemente e giustamente puntati sulle case per gli sfollati, ma l'Aquila senza università non rinasce. Dopo il sisma del 6 aprile si è deciso di non far pagare le tasse universitarie agli studenti per 3 anni, le iscrizioni sono numerose, così come i problemi, in primo luogo gli alloggi, il rettore Ferdinando Di Orio. In questo momento assistiamo a una bolla speculativa, assistiamo a prezzi sconvolgenti per qualsiasi casa presente all'Aquila. A differenza di prima, ora gli studenti sono tutti fuori sede, anche gli aquilani. L'università, secondo il Sole 24 Ore, è il primo ateneo del centro-sud, il 10° in Italia, un primato che attrae e che negli anni ha dato vita a tutto l'indotto, ai bar, le pizzerie, alla movida degli studenti. Ora è tutto fermo. Questa vita cittadina, la città universitaria, purtroppo è legata molto al centro storico, e il centro storico in questo momento è di fatto ancora del tutto zona rossa. Stefano Totoro, GR24, il Sole 24 Ore, L'Aquila. E prima di chiudere questa edizione della GR24, naturalmente facciamo un riepilogo sull'attentato in Afghanistan. Maria Piera Ceci. Sì, purtroppo ormai lo sapete, ve lo stiamo raccontando da questa mattina, 6 soldati italiani sono morti, 3 feriti non gravi nell'attentato di questa mattina a Kabul. Si è trattato di un attentato suicida, rivendicato poi dai talebani, avvenuto alle 9.40 italiane contro 2 blindati Lince, appunto italiani, sulla strada che porta dall'aeroporto a Kabul. Nei 2 blindati, soldati appena arrivati in Afghanistan in aereo su cui era anche la nostra inviata Cristina Balotelli, che ci ha raccontato la sua incredibile esperienza. Secondo il Ministero della Difesa di Kabul, nell'azione sarebbero rimasti uccisi anche 10 afghani. Unanime naturalmente il cordoglio del mondo politico. Il ministro della Difesa, la Russa, ha riferito questa mattina in Senato. Vigliacchi ha detto: non ci fermeremo. Grande dolore e partecipazione anche da parte del Vaticano. Negli ultimi mesi, nonostante la massiccia presenza di forze armate internazionali a Kabul, si sono moltiplicati gli attacchi suicidi dei talebani. L'ultimo ricorderete l'8 settembre scorso, quando un'autobomba ha ucciso 3 civili esplodendo davanti all'entrata della base aerea della NATO. Naturalmente di questo torneremo a parlare moltissimo oggi qui su Radio 24, lo faremo anche subito dopo la chiusura di questo GR24 in una puntata speciale di Buongiorno America. Ed è tutto per questa edizione, curata e condotta da Maria Piera Ceci e Alessandra Tedesco. Come avete sentito, ora la linea va a Buongiorno America. Noi ci risentiamo con il GR alle 14. GR24, il Sole 24 Ore, direttore Gianfranco Fabi.